Il boscaiolo e Mercurio, da favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Al signor C.D.B. All'opra mia, signor, norma e misura diede il vostro gentil senso del bello, a cui spiace dell'arte ambiziosa i fronzoli e gli inutili ornamenti. La penso anch'io così, guasta dell'arte per troppa voglia d'abbellir la schietta semplicità l'indocile poeta. Anch'io discrete amo le grazie. Esopo apre la via per cui cerco a quel fin alto seguirlo ov'egli tende anch'io. Semmai non tragge il mio lettore alcuna dottrina o compiacenza, o almen vi giovi l'indole allegra che allo scherzo mira e che conduce il vizio alla burletta. Tal mi son io, se a me non diede il cielo omeri e braccia d'Ercole robuste. Invidia e vanità sono i due gangheri su cui si aggira questa vita umana e dove anch'io la favoletta impernio. Vizio e virtù, l'un contro l'altro armato, seno e stoltezza in bilico e contrasto. Ecco il gioco, onde spiegasi siccome possan la rana invidiar del bove la grandezza e gonfiar fino alla morte e il lupo urlar contro l'agnello e in guerra muover la mosca e l'umile formica. Questa è l'opera mia che si distende ampia commedia in 100 atti diversi e che perfonda l'universo intero. Uomini, dei, lo stesso alto tonante e gli animali e il portator di belle ambasciate alle belle, almo Mercurio. Possano in volta ognuno pronto al mio cenno. Ma non perciò, signor, venni quest'oggi innanzi a voi. Mi chiama altro argomento. Un boscaiol un dì smarrì la scure di cui traeva il suo boccon di pane e non aveva da vender neppure i cinci suoi per viver di mane. Onde piangendo supplica gli dèi, o mia scure, gridando, o dove sei? O Giove, a me la rendi e mi darai, signor del cielo, una seconda vita. Nell'Olimpo risuonan questi guai, tal che Mercurio, l'alma intenerita, la scure dice che piangendo chiedi, lo sai tu riconoscer se la vedi? Altro che quel risponde, è questa forse? E gli porge una scure tutta d'oro. Non è questa, egli un'altra gliene porse d'argento. Non valea tanto tesoro. Mercurio allor ne trasse una di legno. Ah, questa è la mia, la riconosco al segno. Lieto sarei se tu mi dassi questa, e tu le avrai, buon uomo, tutte e tre, la tua fede è sì grande e tanto onesta che pagata vuole essere da me. Quand'è così, risponde il poveretto, con tutto il cuore, o mio signor, l'accetto. Quando si seppe il caso, in un momento ogni altro boscaiol perde l'arnese, quindi risuona il ciel in un tal lamento, che Giove ha le orecchie un poco offese. Scende Mercurio nuovamente a loro e mostra a ciascheduno la scure d'oro. Per non parer gente mammalucca, dicon tutti, sì sì, quella è la mia. Mercurio gliela dà, ma sulla zucca, a castigar la loro ladreria. O furbi, è sempre buono di saperlo, che il Padre Eterno non è poi sì merlo. Fine della favola, il boscaiolo e Mercurio. Questa registrazione è di dominio pubblico.